Quest'anno quanti film in confronto all'anno scorso sono stati immessi nel biografilm prima di tutto? E il budget in confronto all'anno siamo scorso? Siamo a 90, il budget e i film non sono in relazione, siamo a 93 titoli contro i 107 dell'anno scorso. In realtà abbiamo selezionato di più, proprio anche vista la responsabilità che abbiamo come manifestazione e il prestigio che essere selezionati da Biografilm in questo momento da un film. Siamo stati un pochino più, diciamo, selettivi. Questo consente di valorizzare meglio i film che scegliamo e di dargli più cura e speriamo più attenzione per il pubblico. Sono invece cresciute all'interno di questo numero di film diminuito il numero delle anteprime e chiaramente non è un valore assoluto, ma pur sempre scegliendo i film sulla base della qualità prima ancora della loro esclusività, il fatto di essere seconda proiezione dopo Cannes o dopo Berlino di molti film importanti è chiaramente una soddisfazione e una delle cose che Biografilm offre al suo pubblico. E lasciando perdere il fatto del essere arrivati o non essere arrivati in piazza, del fatto che tu preferisca o meno, o Biografilm preferisca o meno le arene estive all'aperto, il aver dovuto o aver accettato la sfida di un festival più diffuso ha portato all'interno di un'economia gestionale un possibile apertura per un piano futuro, per un rilancio del festival, oppure no? Tu pensi che comunque sia meglio ritornare ad avere poche sale molto concentrate sia per le, diciamo, per le prime visioni per quanto riguarda il festival, sia per quanto riguarda poi invece successivamente le visioni per il pubblico durante il periodo? Ma io penso che sia importante e fondamentale arrivare a una pianificazione e rispettare da parte di tutti una pianificazione di calendario che non ci faccia mai più trovare nella situazione imbarazzante di quest'anno. E detto questo, mi sembra evidente che per l'edizione 2019 torneremo nella nostra sede già concordata con le istituzioni da molto tempo, che è quella del 7-17 di giugno 2019, e ovviamente alla fine di questa edizione avremo capito delle cose in più rispetto alle nuove sale, alle nuove location che andiamo a coinvolgere, e credo che solo alla fine di questa edizione avremo chiaro se e quanto questo allargamento, che è stato necessario, che si è reso necessario quest'anno per la defaillance della Cineteca, possa invece diventare programmatico e restare anche nel momento in cui dovessero tornare le sale della Cineteca ad essere le grandi protagoniste di Biografilm. Quest'anno tu hai detto che è un'edizione, la 14ª, in cui ti sei trovato totalmente, diciamo, soddisfatto, sia per il fatto di aver lavorato quasi come un quotidiano, ovvero la notizia, il film praticamente uscito a Cannes e l'avete avuto su richiesta quasi subito, cioè nel senso vi hanno detto sì immediatamente. Nello stesso tempo, a questo punto volevo chiederti, avete già in mente un'idea di rilancio differente per quanto riguarda l'idea del film, del Biografilm, o quello che già quest'anno c'è, ovvero l'aumentare della parte di fiction, è una risposta a questa domanda che ti ho fatto? Cioè, guarda, in realtà i meccanismi di innovazione sono in opera da qualche anno e sono legati a Biografilm Europa, che porta appunto, e a Biografilm Worldwide, che porta le fiction dentro il festival in relazione con i distributori italiani e con appunto le produzioni internazionali. Quindi presentare dall'Orso d'Oro Touch Me Not a Leto Summer di Kirill Serebrennikov da Cannes, al vincitore della Semaine de la Critique, Diamantino, a numerosi altri film come Another Day of Life o Jane Fonda in 5 atti, o ancora il film su Orson Welles di Mark Cusin direttamente da Cannes, è appunto già di per sé, secondo me, un'innovazione è un percorso che viene da lontano e che è già l'attualità del festival. Ci sono altre innovazioni, come quella legata ai cinefil che verranno quest'anno per la prima volta da 50 città italiane a Bologna per i giorni del festival, ed è un meccanismo molto nuovo, molto innovativo, di cui siamo molto orgogliosi, che si fa anche grazie alla distribuzione cinematografica, ai Wonder Pictures e alla Unipol Biographic Collection, e questo è solo l'inizio. Sì, le tessere cinefil, il lavoro sul welcome, che è un lavoro legato ai nuovi cittadini che hanno scelto di vivere in Emilia-Romagna e a Bologna, e come dire, alcune azioni precise su fasce di pubblico specifiche, come possono essere i giovanissimi o come possono essere gli over 65, sono laboratori che abbiamo aperto e che continueranno nei prossimi anni, anche a seconda delle risposte che ci arrivano su questa edizione. E comunque complimenti per quanto riguarda l'apertura per le serie, perché mi sembra anche quello, però, come detto all'inizio, una bella scelta, un bel colpo di mano a un tavolo da poker, a mio avviso. C'è un rischio che però ho calcolato, ma ottimo, a mio avviso. Guarda, le serie televisive sono un nuovo strumento per raccontare storie, un nuovo formato, e appunto senza farne il protagonista modaiolo di un festival, secondo me è normale che un festival come Biografilm cominci ad aprirsi, lo ha già fatto in maniera episodica, ma invece in maniera sistematica, al raccontare delle produzioni e delle storie che vengono dal mondo delle serie televisive. Grazie. E un'ultima domanda: che rapporto si è instaurato in queste 14 edizioni tra il festival e la città, secondo lei? Ma guarda, la città di Bologna è sempre molto accogliente verso le manifestazioni, le nuove manifestazioni culturali. Il limite che a un certo punto si deve affrontare è quello del riuscire a crescere abbastanza da valicare i confini della città per far diventare nazionali e internazionali le manifestazioni. Altre volte non mi era riuscito, questa volta con Biografilm Festival è riuscito pienamente, grazie al grande impegno della Regione Emilia-Romagna e di Unipol, che hanno creduto nella necessità di superare, diciamo, lo scoglio della decima edizione, facendo di Biografilm un festival capace di interpretare il pubblico della città e i pubblici della città, di essere un festival urbano ad ampia partecipazione cittadina, ma al contempo anche, per esempio, di ospitare un mercato importante come il B2B, che è in questo momento il più interessante mercato del documentario in Southern Europe e sicuramente in Italia, e che in qualche modo dà anche alla città di Bologna una marcia in più rispetto alle produzioni di documentario, alla Fincommission Emilia Romagna l'occasione di vedere cosa c'è di meglio e di rappresentare al meglio i prodotti che vengono realizzati sul territorio. Io credo che Bologna sia la città giusta per un festival che vuole essere urbano, legato alla comunità, ma anche travalicare appunto quelli che sono i confini comunali, per arrivare ad avere, come ha per esempio con la media partnership con Radio 2, che racconta il festival quotidianamente con le storie di Matteo Caccia e il suo Pascal in diretta dal Biografilm Park, e con Sky Cinema, che dedica a Biografilm un intero canale, Biographicalt, diciamo, Biographicalt invade il segnale di Sky Cinema Cult per una quindicina di giorni, presentando come se fosse un canale pop-up ogni giorno, per tutto il giorno, delle storie biografiche, dei film biografici. È un bel modo di portare il festival anche a quelli che non sono fisicamente presenti a Bologna, ma accompagnandolo e con tutto il sostegno che ci dà invece il pubblico della città, che ha una partecipazione non solo alle proiezioni, ma anche a quello che c'è tra un film e l'altro, e quindi il Biografilm Park, e quindi lo stare assieme, il mangiare assieme, il sentire della buona musica. Grazie mille. Grazie a te.